sul pezzo, sono l'ultimissima. Guarda la terra, è abbronzatissima. Stop, stop, al panico. Toc, toc, sono medico. Dimmi se sono colpevole o vittima. Dimmi se l'aria è pulitissima. Smog, smog, del secolo. Toc, toc, ecologico. Custodi cerca, sì, perché la terra un bambino gli dice salvami. Finché l'ultimo fiume sarà prosciugato, finché l'ultimo pesce sarà catturato, fino all'ultima goccia che c'è, gatta che vinci. Tutti sul pezzo, sono l'ultimissima. Guarda la terra, è abbronzatissima. Stop, stop, toc toc, sono medico. Dimmi se sono colpevole o vittima. Dimmi se l'aria è pulitissima. Smog, smog del secolo. Toc toc, ecologico. Toc toc, c'ho un medico. Smog, smog del secolo. Toc toc, ecologico. Tutti sul pezzo, sull'ultimissima. Guarda la terra, è abbronzatissima. Stop, stop, al panico. Toc toc, c'ho un medico. Dimmi se sono colpevole o vittima. Dimmi se l'aria è pulitissima. Smog, smog del secolo. Toc toc, te lo dedico.